siamo beat, DJ sai, ma sai, Mario Calibre cantai, baby, già mi improvvisai, la tua rappresentai, Mario Calibre mi deve come se fette di mai. Mueve tu cucu, muévelo, nena. Mueve tu cucu, muévelo, nena.